Ciao. Sei di Bologna. Ciao. Ciao. Quanto tempo state qua voi? Maggiore. 4 anni. Abbiamo anche una foto di destra che possiamo utilizzare. Allora, primo piano. Ciao. Ciao. Quanto tempo state qua voi? 4 anni. Quando uno parla di... Ciao. Nadavo. Ciao. Sei di Bologna. Secondo te la radio può essere parte dell'arte contemporanea? Pido sagrias. Ostella con million. Ostella con million. Ostella con million. Ostella con million. Ostella con million. Ostella con million. La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants, aux jeunes, Il primo concetto che le viene in mente? Immacolata Concezione. Senti, come prima domanda, perché Santa Nasta? Tu sei di Bologna? E diceva poi papà, cosa devo fare? Hai gente che ha fame? Sì, sì, sì, sì. Grazie. Moi, je n'ai pas besoin du reçu. C'est pour vous? Oui. C'est obligatoire? Oui. D'accord. Quando finisce quello. Macchio. Leo. Che fate? Ci stai intervistando per qualcosa in particolare oppure è così perché eravamo sul tavolo? Voglio tornare a camminare perché la strada mi è più cara. Vado dormendo a carezzo male. Elia Media sa che non sa a molto media dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in piazza Puntoni. www.aeliamedia.org. Ciao, ci troviamo in Ciao Bologna. Vi ricordo che sono Marianna Mendozza. Il mio programma radiofonico è incentrato sulla ricerca personale che grazie a Pablo Elghera sono riuscita a focalizzare e a darne un nome. Essa comprende l'introduzione del concetto di partecipazione, applicandolo a qualsiasi esigenza privata e pubblica, con la regola principale di ascoltare. Sono partita dall'accoglienza iniziale di Bologna, ecco il ciao, per proseguire con interviste sulla conoscenza dell'interfaccia bolognese attraverso la strada, luogo principale delle persone. Oggi abbiamo Mauro Collina. Ciao Mauro. Ciao a te, ciao agli ascoltatori della radio. Ci troviamo in, se ci volete ascoltare, in www.eliamedia.org. Allora Mauro. Dimmi. Tu sei bolognese? Sì, sono uno dei pochi indigeni sopravvissuti. No, lo dico scherzosamente perché in realtà, insomma, però sì, sono bolognese. Un po' è vero, sopravvissuti, perché questa Bologna è un po', diciamo, meno bolognese di abitanti. Ma meno bolognese. Bologna è sempre stata una città attraversata da tanti soggetti che venivano, che ancora tuttora vengono, da altre città del nostro paese, ma anche da altri paesi, da altri continenti. Quindi una città che, insomma, suo malgrado, è stata sempre ed è attraversata da culture diverse. Culture. Introduciamo... No, una domanda che ti volevo fare è proprio inerente a Bologna. Secondo te Bologna è partecipativa? Ma a modo suo lo è. Negli ultimi anni devo dire che questa partecipazione è venuta meno per tantissimi motivi. Però sì, ancora per fortuna dei momenti ci sono. È diventato più difficile, è una città che paga pesantemente una crisi, paga una crisi sul piano culturale, nei rapporti sociali, e quindi questo impedisce poi, no, di poter sviluppare tutta quella ricchezza che in realtà della quale questa città è attraversata. Senti, secondo te la radio può essere un mezzo o un mezzo migliore per poter riuscire a comunicare una forma diversa di notizie? Certo, la radio è uno strumento eccezionale, è uno strumento che è stato per anni anche sottovalutato. Io ho avuto la fortuna ad esempio di collaborare con una radio cosiddetta libera che trasmette dal 1976 con la sua frequenza rimasta invariata. È una radio che ha prodotto tanti momenti di informazione, tanti momenti di cultura altra, e quindi la radio certo è uno strumento eccezionale. Ci sono stati alcuni anni dove la gente magari non aveva più voglia di accenderla, di ascoltarla. Per fortuna devo dire che invece negli ultimi anni c'è stata una riscoperta in particolare da parte dei giovani, che non era così scontato, no? Che si mettessero lì, si sintonizzassero, hanno il computer, no? Quindi magari il computer distoglie, no? Dall'ascolto. Però, insomma, quello che senza fare sondaggi, ma parlando semplicemente con le persone, ci siamo accorti che, insomma, di nuovo la radio ascoltata. Ed è uno strumento, ripeto, eccezionale per veicolare la comunicazione, i messaggi, a patto che appunto sia strutturata e abbia una sua collocazione precisa. Questo è fondamentale. Ci sono radio di svariato tipo, le radio comunitarie, le radio sociali, le radio, e in questo panorama una radio che vuol fare una buona informazione, che vuol trasmettere della buona musica, anche questo è importante, credo che oggi possa trovare tranquillamente spazio, possa essere di nuovo al centro della vita mentre uno lavora, studia, è in giro, in macchina, magari un po' incarognito perché fermi in mezzo al traffico, però insomma se accende la radio magari questo sbollisce questa no? Un po' la rabbia dell'ingorgo. Diciamo che questo problema era pure un problema di attenzione. La radio comunque ha bisogno di più attenzione rispetto a un'immagine, no? È meno diretta forse dell'immagine, quindi ha bisogno di essere ricercata anche, perché poi non è che alla prima sintonizzazione si ritrova una radio che si vuole sentire. È una ricerca e quindi è un modo anche culturale di poter fare delle scelte che poi in questo momento forse non vengono fatte, o comunque non si sanno fare, si è dimenticati di fare forse. Certo, sono d'accordissimo. Vedi, quando tu accendi la radio, o sei un affezionato di una frequenza e quindi sei lì, ormai no, adesso poi con le radio digitali, ma quelle di una volta dove avevi il cursore che si era piombato da solo, no, perché stava lì fermo da anni, quindi non lo smuovevi più. Ma oggi col digitale magari uno gira, no, ha più possibilità. Però è vero, se tu accendi e il messaggio che in quel momento ti arriva, o perché è un bel pezzo, no, una musica che è intrigante, o sono le parole, no, che ti prendono, perché ti fanno, no, pensare a degli argomenti, a qualcosa che a te interessa, o magari che non ti interessa però sei curioso. Quindi la radio è uno strumento che deve essere certo valorizzato, e per farlo credo che basti veramente poco. Basta, credo, ma questo lo fanno già tutti quelli che nelle radio di Bologna stanno lavorando, di essere poi i promotori anche di iniziative. Una di queste, tra l'altro, con la quale io ringrazio di essere ospite oggi in un tempo da lupi. Ma credo che questa sia, ad esempio, quella che voi avete avuto è un'idea eccezionale per alcuni motivi. Uno, perché intanto è la radio, quindi no, ci abbiamo questo. Due, perché vi siete collocati all'interno della zona universitaria. che è storicamente un luogo comunque di passaggio di soggetti che sono forse più attenti di altri, e poi perché comunque anche la posizione, no? Come si presenta con questa appunto struttura è molto carina, è molto intrigante, e quindi credo che questo aiuti. Poi certo, la radio, oltre appunto a quello che è la, come sono le dirette, o comunque tutto quello che è registrato in studio, tutto quello che viene mandato dallo studio, la radio è una forma che deve girare. Io di questo non sono sempre stato convinto, perché un redattore di una radio, chiamiamolo come volete, un collaboratore, non uso il termine giornalista, non lo voglio usare, poi magari se ne parla. Deve stare in mezzo alle persone, perché la radio è immediata. La radio non aspetti di tornare a casa, accendere il televisore e vedere le immagini. La radio l'ascolti, quindi è immediato. Se c'è un qualcosa che sta accadendo, tu hai la possibilità di telefonare, di metterti, no, in diretta, di farti mettere in diretta. Ed è estremamente importante, perché ti dà il senso di ciò che accade realmente nella città, nella strada. Quindi è uno strumento eccezionale. È reso libero sempre da chi sceglie però di fare radio, cioè nel senso che è vera questa idea di radio libera o... Ma la radio libera è libera veramente, come diceva una canzone, se i soggetti che stanno dietro la console, dietro al mixer, sono soggetti intelligenti e non venduti a una logica di mercificazione. Ci sono tantissime radio cosiddette commerciali che ricevono finanziamenti, che vivono su di grandi sponsor, che hanno un sacco di soldi, ma ci sono altrettanto radio che faticosamente, senza avere appunto tutte queste entrate economiche, non sono al retto negli anni dimostrando che è possibile farlo, ma che con una, come dire, una cocciutaggine, no? Che non era assolutamente anche questa scontata, però continuano. Quindi sai, il fare radio è essere intanto crederci. La radio ci devi credere, devi stare. Poi per alcuni ne abbiamo ascoltati tanti che si sono divertiti per un po' e hanno poi abbandonato, perché era il giochino nuovo, si divertivano, si sono divertiti per un po' di tempo, dopodiché, insomma, il giochino non piaceva più e hanno fatto altro. Ma va bene lo stesso, perché anche in quel breve periodo, seppur breve periodo nel quale hanno collaborato, credo che qualcosa abbiano dato. Poi certo, non stiamo qui a discutere, no, su chi è stato bravo, chi è stato meno bravo, ma comunque hanno collaborato, perché comunque la radio è stata ascoltata. I giri di amici, negli anni passati ci si sintonizzava, perché sapevi che, non so, alla sera, magari in tarda serata, c'era la trasmissione del tuo amico, e questo era interessante, perché poi scoprivi che nelle case le persone si incontravano, cioè era una scusa, quindi una scusa di costruire un momento di socialità, no? Quindi interessante, credo, no? Soprattutto in una situazione del genere, che abbiamo perso un po' la concentrazione e quindi la voglia proprio di stare insieme, quindi di collaborazione. Non abbiamo molto l'idea della collaborazione, cioè abbiamo più delle strette lavorative, dei modi di sopportarsi un po' di più, però in realtà la collaborazione, che forse dopo mi puoi spiegare meglio, nel caso... Mi potresti parlare anche della collaborazione di Bologna, che era prima rispetto a ora? Infatti in questo momento mi piacerebbe farvi sentire un'intervista di un bolognese che non abita più a Bologna, ma che se la ricorda così e che dice determinate cose che penso che possano poter far pensare. Tu, nel senso che come padre dei bolognesi, padre della città tutta, di chi si sente di un popolo, è il simbolo. Non parlo storicamente, che poi sinceramente non so neanche la storia, parlo soprattutto per l'imponenza, perché sta in mezzo alla piazza, perché è il punto di ritrovo degli anziani, dei giovani, di molti immigrati. È la piazza, è il punto centrale, focale della città. di ogni città. E nella piazza ognuno può vedere, c'è la chiesa e va bene, uno ha la chiesa, c'è il palazzo del comune e va bene, uno c'ha il palazzo del comune. Il palazzo Renzo, d'accordo, e uno può preferire anche il porticato. Bene, io preferisco Nettuno. E oltretutto, quando stava male, perché è stato ricoverato dentro il palazzo del Potestà, steso per poter essere restaurato. Naturalmente, dopo è stata costruita intorno a lui un'impalcatura di legno, di modo che le persone, i bolognesi, potessero andare a trovare con una passerella e girare intorno tutto al Nettuno, a vedere gli stati dei lavori, a vedere come stava, se era più verde, se era più scuro, dove era più malato, dove i piccioni avevano colpito di più. Dal lato destro, guardando il Duomo, all'altezza delle finestre della figlia del Potestà, si poteva vedere molto bene il Nettuno, che era rivolto all'inizio verso via Indipendenza, quindi con le spalle alla chiesa e quindi in faccia, nudo, di fronte alle finestre della figlia del Potestà. Il Potestà chiese cortesemente, ma non credo tanto cortesemente visto la risposta, chiese all'artista di spostare, di girare la statua in modo che non avessero le pubenda di fronte alla finestra della casa della figlia. È successo che, d'accordo, girò la statua, ma utilizzò il pollice della mano sinistra in modo che sembrasse dalla finestra della figlia del Potestà un membro eretto. Bologna è stata all'avanguardia. All'avanguardia parlo che è stata perché adesso non lo credo più. Si è persa come socialità, vuoi perché i bolognesi si sono decentrati. Sono andati quindi a vivere in zone come Castelmaggiore, che è l'Interland di Bologna. Sono molto meno quei crocchi di anziani che si ritrovavano e che creavano e permeavano una società. Permeavano perché non erano dei crocchi chiusi, ma potevano entrare e discutere fondamentalmente di politica, quando si avvicinava la domenica di calcio, ma erano crocchi di persone dove ognuno si poteva sentire e poteva parlare e dire la sua. Allora, parto da questo punto di vista perché il tessuto, per darlo in memoria ai giovani, lo devono dare come esempio agli anziani, prima di tutto, per la loro esperienza, anche per la loro piccola parte di ignoranza e intelligenza. Devono dare un esempio di come si può essere solidali e al tempo stesso divertirsi. Parlo dei circoli arci. I circoli arci, ad esempio, che adesso magari sono un po' meno, puntano più a organizzare feste, sagre, eccetera. E fino agli anni 80 i circoli arci erano posti dove era appunto ritrovo degli anziani e dei giovani. Molti giovani che magari lavoravano tutto il giorno arrivavano alla sera e giocavano a carte con gli anziani. E prima c'era l'immigrazione a Bologna, e parlo degli anni 70 e 80, e si integrava abbastanza bene con la città. Anche per questa ragione, perché c'erano tante società sportive che aiutavano questi giovani a integrarsi, anche perché c'erano il partito stesso, il Partito Comunista, che aiutava questi giovani ad alimentare una aggregazione e una voglia di politica. L'università stessa, che aiutava a integrare i bolognesi con studenti del sud, ma soprattutto c'era questa società civile molto solidale che aiutava dalla fabbrica ai lavori artigiani, aiutava queste persone emigrate e i figli a integrarsi, a stare insieme, a cercare di sviluppare insieme un'idea di socialità, di cultura e di stare insieme. Lo stacco è stato forte quando le stesse persone che sono diventate grandi del sud e gli stessi bolognesi hanno ricevuto un'altra spinta di emigrazione da parte del Nord Africa, vuoi, oppure anche del Senegal o dei paesi africani. C'è stato uno stacco perché la diversità era molta, probabilmente, oppure Non credo a una forma di razzismo, perché non l'ho mai visti e né sentiti bolognesi razzisti. Anzi, è solo un distacco di cultura dove non possono intervenire le singole persone, ma devono intervenire le istituzioni, da far da collante, perché io da solo che ho un emigrato col quale magari ho una diversità di vedute notevole, me lo trovo al secondo piano, io sono al terzo, io trovo una... tranquillamente riesco a comunicare il buon vivere civile di tutti quanti. È normale. È normale comportarsi in questa maniera. Ma in una società è più difficile. È più difficile perché sono gruppi, non sono individui. E i gruppi hanno tante individualità che non permettono un'amalgama. Io credo che debba intervenire di più le istituzioni, per istituzioni dal punto di vista degli assessorati alle culture, alle opportunità, sindaco stesso, devono trovare un modo per unire le diverse culture. Come si uniscono le diverse culture? Innanzitutto devi creare degli spazi aggregativi anche per loro, non possono rimanere là ghettizzati in un quartiere dove si alzano la mattina alle 5 per andare a lavorare, mettono un'ora e mezza, è uguale al ritorno. Bisognerebbe aiutare anche da questo punto di vista questa situazione. Allora hanno un'altra religione? Beh, è giusto che preghino quell'altra religione, che abbiano gli spazi per poterlo fare. Hanno una diversa cultura culinaria? Beh, è giusto che allora abbiano le loro macellerie, è giusto che abbiano i loro ristoranti. È giusto che riescano a sentirsi integrati, ma con la propria, come dire, originalità. Le persone, gli individui da soli ce la fanno, pur con pigrizia e magari con poca buona volontà. Ce la fanno perché il buon vivere civile è quello che ci hanno insegnato da piccoli e l'educazione civica è normale che ce la facciano. Ma quando si pongono problemi dal punto di vista di organizzazione del lavoro, di organizzazione della vita sociale, quando sono gruppi che si muovono, pur piccoli che siano, c'è bisogno di qualcuno che faccia da tramite, qualcuno che sia capace di capire le idee, di capire e di aiutare, di capire cosa vogliono un gruppo, cosa vuole quell'altro e che faccia da ponte, da collante. Con spazi aggregativi ce la possiamo fare. Gli spazi aggregativi li deve dare il comune, gli spazi aggregativi deve dare le circoscrizioni, gli spazi aggregativi deve dare l'opportunità. Non può bastare un parco, non bastano delle strutture anche al chiuso, in modo che una bocciofila, basta qualunque cosa, che però ci sia un posto dove siano integrati. Noi siamo fortunati, loro hanno bisogno. E non è un concedere una guancia per dire dopo però, chiedo scusa, un dito, poi dopo le persone si prendono un braccio. No, io vedo un interscambio, perché è chiaro che anche loro ti danno il dito, è chiaro che anche noi potremmo prendere un braccio. Perché le persone che si portano dietro un dolore del distacco della propria casa, della propria famiglia, della propria terra, radici, è un dolore che porta a una profondità di animo e di pensieri. Comunque profondità di animo delle persone che noi non potremmo sapere né conoscere se non facessimo la stessa esperienza, uno scambio, e quindi anche noi potremmo prendere il braccio, perché anche noi potremmo sapere cosa vuol dire una cosa che non conosciamo, e come noi possiamo dargli un'idea di qualche modo di socialità e di intendere la vita e la gioia di vivere in un'altra, nella nostra maniera. Quindi anche noi potremmo dare il braccio, ma non è una questione di staccare, è di accarezzare il braccio. E fagiolini? I mattoni sono rossi delle case, però l'intonaco spesso è rosso, il porticato fa delle ombre quando c'è il tramonto, è tutto rosso. C'è poco da fare, è rosso. Senza dubbio, grazie. E non arrivederci senza alcun dubbio, perché torno sicuramente. e poi quando magari vado in pensione cercherò di integrarmi in uno di questi circoli arci dove insegnerò ai giovani a giocare a carte e dove vi farò offrire il bicchierino di bianco. Ok, vi ricordo sempre che siamo su... Vi ricordo sempre che ci troviamo su www.eliamedia.org e stiamo parlando con Mauro Collina, che ci stava spiegando una serie di cose sulla radio precedente di Radio Fujiko, che si chiama Radio Città. Sì, Radio Città, la vecchia Radio Città 103, via Masi 2, 051-34-58. Allora, spiega un poco come mai tutto ciò. Ci hai lavorato in che senso? Ci hai lavorato? Ho collaborato, sì, ho collaborato per tanto tempo con la radio e quindi ho una, come dire, sono affezionato allo strumento, ci credo, perché come dicevo prima è veramente uno strumento molto importante. Lo è stato, credo che lo sia oggi in questo nuovo panorama appunto di un risveglio da parte dei soggetti che lo scoprono e insomma lavorare in radio dà anche credo molte è faticoso perché se lo vuoi fare non essendo pagato, perché uno degli aspetti di una radio libera è che tu non percepisci uno stipendio. Abbiamo un rumore di un vespino che se ne va, ma questo siamo... Fa parte della piazza. Fa parte della piazza, quindi va bene. Ma dicevo, non percependo nessuna forma di reddito, no? Lo fai quando puoi, lo fai nei buchi di tempo dal lavoro, dallo studio, e quindi diventa forse un po' faticoso. Però poi ti rendi conto, facendolo, che quando incontri le persone che hanno ascoltato, ma non te direttamente, ma hanno ascoltato la radio e che danno dei giudizi, giustamente, lì ti accorgi quanto il lavoro sia stato importante. Ma quindi secondo te un cambiamento di una radio libera non può essere pagato, diciamo, non può cambiare un ma sistema, sì, perché entrerebbe ma non comunque... pagato, no, può essere anche pagato. Il problema è che sul mercato, se tu non vuoi cascare dentro le dinamiche della radio classica, e ce n'è una lista infinita di quelli che veramente hanno soldi perché vengono finanziate, devi trovare, come dire, vai a caccia di pubblicità, ti sbatti a mettere su iniziative, cerchi di fare qualche concerto, cioè fai tutte delle cose che sono per la sopravvivenza della radio, perché la radio costa, perché devi pagarci sopra tutte le tasse che sono alte, hai la manutenzione degli impianti, c'è il ripetitore che spesso salta, ti saltano i valvoloni, cioè insomma chi fa radio lo sa, e quindi sono dei costi. E allora con la pubblicità, in un momento peraltro di crisi, dove i soggetti che hanno delle attività commerciali non sono così disponibili, non sono, devo dire, mai stati quelli almeno però insomma oggi nella crisi è una crisi vera, e quindi i soggetti fanno fatica a cacciare dei soldi. E allora insomma diventa difficile, quindi non ti puoi permettere di dare degli stipendi. Puoi fare dei rimborsi quando vai a Roma, allora magari vai dal direttore, dice, direttore per favore. Ma insomma, adesso a parte gli scherzi, ma davvero i soldi sono sempre stati un grosso problema per le radio. Però ecco, nonostante che si andasse magari a chiedere prestiti agli amici, ma quando c'era la lira anche le 100.000 lire servivano, perché ti era arrivata una bolletta e dovevi pagarla, se no ti staccavano la corrente, dopo non c'era più storia. E però alla fine ti accorgi che ce la fai perché hai costruito una rete, perché anche questo è l'altro aspetto, no? Tu hai costruito una rete tra gli ascoltatori della radio che diventano anche i sostenitori della radio. Quindi in qualche modo riesci comunque ad andare avanti, faticosamente, perché questo è, però riesci ad andare avanti. Beh, penso che la fatica sia una cosa che si sappia, che purtroppo vivendo fa parte della vita, no? Senti, io vorrei raccontare una cosa, che praticamente il nostro incontro, che è stato, penso, particolare. Io mi sono trovata, non sono di Bologna, mi sono trovata a entrare in questa piazza maggiore, entrare in questo bar che si chiama il Bar La Linea. Appena sono entrata ho avuto una sensazione di familiarità, di accoglienza, di forza, che è una cosa difficile comunque da trovare, o comunque la sua caratteristica è molto importante sentirla, anche di un bar, soprattutto perché è un luogo di incontro e ne possiamo anche parlare. Sono entrata e ho avuto questa sensazione, poi ho avuto modo di conoscerti e è uscito proprio che sei una persona straordinaria, praticamente. Tu mi potresti parlare di Bologna meglio di te, penso che poche persone ne possono parlare, infatti potremmo iniziare proprio su questa caratteristica del bar, che è comunque un punto di incontro, di... senza nessuna pretesa, ma solo quella di parlare, di sentirsi, di ascoltare, di partecipare e quindi di creare delle reti. Ma vedi, intanto grazie per questa cosa che hai detto, perché insomma... Sculinato. No, diventa, rischia anche di essere un po' imbarazzante, ma insomma, a parte questo, adesso senza nemmeno fare troppo, come dire, lo spot al locale... è vero che però La Linea, così come è stato pensato, è diventato un luogo d'incontro, un luogo d'incontro ovviamente schierato, cioè spudoratamente schierato a sinistra in una città, no? Che credo avesse bisogno di un luogo come quello, perché è un luogo che ospita tantissime iniziative, presentazioni di libri, dibattiti, incontri, ma anche le conferenze stampa, insomma ci passa, come dire, la parte più militante e più consapevole della città, e quindi è interessante anche viverlo come, non solo nella dimensione, io che ci lavoro, nella dimensione lavorativa, perché ho la fortuna anche di incontrare, di vedere delle facce amiche, e quindi di poter, compatibilmente con il lavoro, ma anche di scambiare due un'impressione su qualcosa che è successo. Quindi è interessante. Ma la cosa che credo più importante è che Bologna non aveva da troppo tempo un luogo dove ci si potesse incontrare, dove tu, insomma, davi appuntamento sapendo di essere accolto in un certo modo. Negli anni abbiamo avuto... partendo da quando ero giovanissimo, avevamo il Bar Nazionale, oggi poi chiuso, oggi non c'è più, c'è una parte della Feltrinelli. Il Bar Nazionale stava all'angolo tra Via Rizzoli e Piazza Ravegnana ed è stato per tantissimi anni il luogo di incontro dove ti davi appuntamento, dove ti vedevi. E poi c'è stato un buco, no? C'è stato, oppure c'è il Piccolo in Piazza Verdi, ma il vero vecchio Piccolo, quello non di adesso. Però dopo poi insomma era tutto finito e allora per tanti anni queste possibilità non sono venute meno, sono venute a mancare. L'apertura della linea è stata un'intuizione, credo una volontà, ma più come dire, anche una voglia di proporsi, che ha funzionato. Quindi oggi La Linea, tu hai visto, sei entrata intanto cominciando, come dire, da quello che vedi appeso al muro, questa grande bacheca dove trovi le cose credo più aggiornate, forse non dico le più interessanti, ma quantomeno insomma tutto ciò che gira a Bologna per quanto riguarda la musica, il teatro, le iniziative, le assemblee, c'è di tutto. E quindi già questa è una sorta di grande bacheca dove uno passa, si beve un caffè, ma butta un occhio e sa che magari il giorno dopo, lo stesso giorno, c'è qualcosa. Poi lo interessa, non interessa, ma comunque c'è, ha questa possibilità. E quindi devo dire che insomma è un luogo che mancava a tanti, e tanti appunto si riconoscono, insomma, vengono, sono clienti particolari, no, di questo spazio. Uno in particolare, un cliente più particolare? Ma no, ce ne sono tanti, no, ce ne sono tanti. Guarda, noi abbiamo per fortuna, credo, non so, senza fare i nomi, ma abbiamo tutti gli scrittori bolognesi, no? è una ricchezza, certo. È una ricchezza, ma non tanto perché fa da lustro al locale, che non credo insomma che non sia quello il problema, ma perché è la possibilità di conversare, ripeto, anche così nei ritagli, no? Tra un, mentre no, io mentre che lavoro faccio fatica, ma chi sta lì ha la possibilità di scambiare delle opinioni, no? Con, e poi c'è tutto il mondo, ci passa veramente il mondo dei sindacati, no? Confederali, extraconfederali, autonomi, passano tutti, passano gli studenti medici, cioè è una, come dire, è un luogo interessante, credo. Libero, e quindi dà la possibilità di poter comunicare in forme diverse quello che sta avvenendo attualmente, visto che non ci sono molti posti in cui si può dire determinate cose, oppure soprattutto si possa conoscere delle persone che possono insegnare o dirti o farti capire delle cose che è difficile poi comprendere se soprattutto oggi ci danno soltanto dei mezzi che ci danno quelle due o tre nozioni e noi non abbiamo nient'altro. No, sì, è uno spazio che ha a disposizione, capita spessissimo che un collettivo, un gruppo abbia bisogno anche così di vedersi per fare una riunione al volo, se è possibile che lo spazio libero viene occupato, no? Nel senso che si fa la riunione. Quindi c'è uno spirito veramente di accoglienza. E poi certo, i soggetti che passano possono si incontrano e si scambiano pensieri, idee, discutono, magari si arrabbiano pure delle volte, capita anche quello, no? Perché magari uno la pensi in un modo, però è sempre comunque nei limiti, come dire, del buon senso collettivo, e poi sempre con la ricerca, credo, insomma, di trovare, di avere la grande possibilità di trovarsi, no? Quindi questo è importante, l'incontro. L'incontro che è impedito da tantissimi fattori, che sono quelli dei tempi di vita, lo stress da lavoro, da studio, no? Che uno deve correre, però chiaro, difficoltoso, ma anche solo per il tempo di un caffè ci scappa una battuta e quella battuta può essere raccolta e può non tanto, come tu dicevi, insegnare, ma può essere semplicemente come dire, il trasmettere, no? Il trasmettere qualcosa. Poi sta alla persona che ascolta, no? Sì, prendere, certo, quello che gli interessa. Ognuno ha la sua digestione, così. Assolutamente sì. Vi ricordo sempre che ci troviamo su www.eliamedia.org e in questo momento vi farò sentire una composizione fatta da Giuseppe Galazzo. Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? ricordo sempre che ci potete trovare su www.eliamedia.org, il Radio Kairos 105.5. Ci troviamo in Piazza Puntoni e siamo con Mauro Collina. Allora, Mauro, un'altra domanda che ti faccio è: cosa sei? È una bella domanda questa, me la fai così. Sono un soggetto che continua a credere, sono un fottuto idealista, quindi continuo a credere che è possibile trasformare questa società, perché soprattutto in questo momento credo che sia veramente importante avere un atteggiamento non passivo, ma anzi estremamente attivo, costruttivo. E sono, mi ritengo, come dire, un militante, un comunista, senza scomodare insomma le cose, ma sono un disobbediente anteliberale, di quelli che sorridevo quando sulla scena politica uscirono i disobbedienti e magari in tal TPO qualcuno... Visto che siamo copiati da una radio che ho ospitato all'interno del TPO, a me scappava un po' così, mi veniva da sorridere, perché insomma i disobbedienti in quella forma insomma mi facevano un po' sorridere. Però insomma sono un testone che crede ancora che appunto sia possibile fare delle cose collettivamente, perché questo è importante. Non credo nei ruoli dell'avanguardia, di tutte quelle cose che purtroppo ancora assistiamo e quindi insomma... Beh, ma vogliamo parlare pure un poco di questo giornale che mi trovo qua davanti? Ah, molto volentieri. Questo giornale... Ecco, sono anche di lotta continua. Ok. Perché me la butti lì, io raccolgo la provocazione... Dai. Ma il giornale intanto che ha questo titolo... che a tanti è molto caro, appunto la testata di lotta continua. Quella... Quindi alcuni diranno, ma che cos'è? Un barlume di ricordo? È una rimembranza? È un... No, è semplicemente che ci siamo, te la racconto così a chi ci sta ascoltando. 42 anni fa nasceva un'organizzazione della sinistra rivoluzionaria italiana che prese il nome Lotta Continua. E dopo 42 anni, dopo 40 anni anzi, quindi circa 2 anni fa, dopo che per 40 anni tutti avevano parlato, detto, sparlato di cosa era stata la lotta continua, abbiamo pensato che era arrivato il momento di insomma, che dovevamo parlare noi che siamo di lotta continua. Dico questo perché al congresso di Rimini dell'ottobre del 1976 l'organizzazione fu ufficialmente sciolta da quelli che allora erano i dirigenti, Adriano Sofri in primis, ma che, come dire, scelta che noi non condividevamo, assolutamente non era condivisa dalla stragrande maggioranza. E quindi in tutti questi anni, nel silenzio, ognuno ha fatto scelte di vita, eccetera, eccetera. Ma c'è rimasta dentro questa voglia di poter ancora essere, come dire, di poterlo dire, che appunto siamo di lotta continua. E ci è venuto in mente, lo dicevo 2 anni fa, perché era il quarantennale, perché ci piaceva poter dare, come dire, un contributo sulla memoria storica. E allora da lì, con una serie di iniziative che sono state fatte le prime a Roma, e adesso si stanno allargando un po' in giro per tutta Italia, abbiamo dato vita ad un'associazione culturale, quindi no, poi ci scherziamo sopra, facciamo anche le battute, che rifondiamo l'organizzazione, ma in realtà è un'associazione, che però si pone il problema appunto di trasmettere la memoria storica, perché crediamo che noi siamo stati l'organizzazione che in Italia ha prodotto negli anni, appunto fino al suo scioglimento, tutta una serie di passaggi politici, culturali, sociali estremamente importanti. E che ancora, se uno si va a rileggere, e lo potrà fare dalla fine dell'anno, insomma, dalla fine di novembre, insomma, saremo pronti anche con un sito dove stiamo digitalizzando tutto il materiale, e quindi uno potrà trovare dalle varie forme del giornale, da quando era mensile, poi settimanale, quindi al quotidiano, ma tutti i volantini, documenti, foto, manifesti e quant'altro. E perché la memoria va passata, va trasmessa, e quindi crediamo, insomma, che questa sia un'operazione culturale, sicuramente politica, perché siamo poi all'interno di tutte le dinamiche reali, no, del nostro paese. Senza peli sulla lingua. Sì, assolutamente. E ci è venuta anche in mente un'idea un po' strampalata, ma di riproporre anche il giornale. Quello che su cui abbiamo davanti è il quarto numero, il titolo è La crisi è un'arma dei padroni, quindi siamo perfettamente all'interno di quelle che sono, no? Il dibattito, ma la tragedia, io dico anche rispetto al lavoro, anzi ai lavori. E uscirà il prossimo numero, uscirà verso la metà di novembre, e sarà un numero speciale molto corposo, perché lo stiamo pensando, lo stiamo ragionando con contributi, e perché anche il giornale è una forma, come dire, per essere visibili e per trasmettere dei messaggi. I messaggi sono rivolti a noi giovani, no? Ma i messaggi sono rivolti in particolare alle nuove generazioni, perché c'è bisogno di sapere, poi uno si mette lì con calma, senza, non vogliamo mica tediare nessuno, ma credo che dei passaggi siano importanti, e allora da un lato i giovani, da un altro lato anche quelli della mia generazione, che senza esagerare abbiamo rivisto ritornare perché finalmente... E, ripeto, ognuno aveva fatto scelte in questi anni le più diverse, e quando abbiamo cominciato a rivederci abbiamo rivisto anche vecchie facce con molto piacere. Il 20 di settembre eravamo a Roma in una giornata per ricordare Walter Rossi, dove abbiamo bloccato il sindaco Alemanno, fascista, carogna, che voleva addirittura portare una corona, lui voleva portare una corona quando ammassarono Walter, lui era il segretario del Fronte della Gioventù a Roma, quindi insomma un bel bastardo, gliel'abbiamo impedito fisicamente di portarla. Quindi voglio dire, siamo anche, come dire, determinati, non stiamo solo facendo un'operazione, no, così, no? Non siamo i reduci, nessuno di noi si sente reduce, e questo è un altro degli aspetti. Per cui, insomma, crediamo che sia una, come dire, trasmettere una memoria, ma stando dentro a quelle che sono le dinamiche che oggi il paese attraversa. Quindi, insomma, eravamo a Roma sabato scorso, quindi siamo all'interno delle dinamiche vere. Per Roma, per sabato scorso, hai qualcosa da no dire? Comment. No. No comment, perché devo ancora metabolizzare... lo dico onestamente, un certo imbarazzo ma anche una certa rabbia, perché credo che oggi non sia il momento, come dire, di non tanto sulla pratica, che non mi interessa perché ci si va poi a infognare su ragionamenti che sono noiosissimi, ma credo che sia mancato il rispetto. In un certo momento di quella giornata è mancato il rispetto per quelle che, togliendo le cifre politiche che si danno, ma eravamo credo sui 300.000 veri, e allora io credo che sia stata un'operazione che ha impedito a quei 300.000 di potersi esprimere. Dopodiché uno dà il giudizio che vuole. Io credo che oggi non sia il momento di rompere, mettendo tra l'altro a rischio, rischio fisico le persone. Abbiamo visto le facce terrorizzate e non ci è piaciuto, perché un conto che tu sei organizzato, decidi collettivamente, un conto che ti capitano delle cose che certo uno può dire certo si sapeva, ci sarebbe stato qualcosa che... Ma io sono antico, sono vecchio, e credo che tutte queste forme vadano quantomeno, come dire, concordate. Tu vuoi fare una cosa, benissimo, io non penso di volerne fare un'altra, però mettiamoci d'accordo. perché il pericolo oggi anche, e lo stiamo leggendo nei giornali di questi giorni, di un ritorno proprio brutto, si sta ritirando fuori la legge reale, le modifiche del codice penale per una carcerazione più lunga, cioè stiamo ritornando, rischiamo di tornare dentro un film già visto, orribile, che ha prodotto la disfatta di un movimento. E ha prodotto e ha rimesso seriamente in crisi la vita vera delle persone. Allora io prima non vorrei prendere tutto questo con una leggerezza, come purtroppo sento, leggo sui blog, in rete, sono state scritte delle cose, io credo, assolutamente folli in questi giorni. Quindi il mio giudizio su quella giornata è una giornata estremamente positiva perché eravamo in tanti. Certo, con una grande confusione, con tantissime contraddizioni, ma d'altra parte la realtà del nostro paese è questa. Oggi va ricostruito un movimento, va ricostruita una collettività cosciente che ponga le questioni, le può anche porre in termini, no, di uso della forza, perché non... Bisogna essere onesti. Uso della forza, dirlo, però sempre per costruire, questa è la cosa che è diversa rispetto a quello che vuole avvenire, no? Certo, cioè quello certo. Che è successo in realtà fa gioco a chi è dalla parte che vuole distruggere questo tipo di cambiamento, perché... Ma non so se vuole distruggere, ha un'idea, ha una sua idea e pensa che quella sia l'idea giusta. Io credo che quella con quelle forme non è l'idea giusta. Io non voglio discutere le forme, perché una risposta, in particolare Piazza San Giovanni, a un certo punto la risposta per l'autotutela, per la difesa, era necessario darla, è evidente. I poliziotti, si sono detto anche delle robe incredibili, precisamente sembrava che polizia e carabinieri fossero diventati, capito, dei santarellini, assolutamente no, rimangono quelli che quando possono, insomma, ti bastonano. E tra l'altro credo che, insomma, le scene viste sono anche, dovrebbero far riflettere sui nuovi metodi che stanno utilizzando, che non sono leggeri. Quindi insomma c'è tutto un ragionamento che va forse avviato, non lo so, sta di fatto che io personalmente non condivido quella scelta, la trovo estremamente sbagliata, perché ha messo veramente, ha impedito intanto che si arrivasse a San Giovanni come si era pensato nella preparazione. E poi ha messo veramente, perché uno deve riflettere su questo, si deve assumere le responsabilità, ha messo seriamente a rischio la vita delle persone. E lì c'era veramente di tutto. Noi abbiamo visto dei ragazzini e bambini in lacrime, non solo per i lacrimogeni, ma per la paura. Non mi è piaciuta. Diciamola così, non mi è piaciuta. Credo che si debba ragionare in maniera diversa. E dopo questa bellissima chiacchierata con Mauro Collina, che deve andare via, posso lasciare la parola alla prossima trasmissione e vi ricordo che ci troviamo su www.eliamedia.org e su Radio Kairos 105.5. Grazie e arrivederci da Marianna Mendozza con Ciao Bologna. Secondo te la radio può essere parte dell'arte contemporanea? In the month of September, for the last 7 centuries, September is my favorite month. Ainsi qu'il se pressait. Il y a 18 mois, autour de son roi foudroyé, que l'on y accueillait. It was possible to ask about them and know them to the answers it was not possible to frame. The odor of the canal was doubtless at the bottom of that aspiration and the breath of the garden. She was the artist and the direct. Федор Достоевский, «Белые ночи». Чувствовал, что мне зашевелился вторая. Какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало часть захватывать вторая. Горло, подергивать подбородок, и что ты все более и более увлажнение глаза мои. Я ожидал, что Настенька, молчал, которая слушала меня... Ostella Oristufliu Ostella Pidos Agrias Ostella Con Nidion Ostella Con Nidion Ostella Con Nidion Ostella Con Nidion Ostella Con Nidion Ostella Con Nidion La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants, aux jeunes, aux enfants, Ti sono Katia Barandi in diretta di Diretto Radio. Da Radio Aelia Media, Radio Aelia Media, ci potrete ascoltare su Radio Kairos al 105.5 e in streaming su www.aeliamedia.org. Inoltre